un segle XIX, el seu nom Joan Serra, mandoler per vocació, el seu mot a la pera, li agradava la sang, ben fresca i ben nova, per ferides brullant i embrutint la roba. Se sentien cridar a les víctimes boges per la por i el dolor. Pietat, pietat. No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga. No em mateu, us demano per ma mare, poseu l'últim que candeu. Pietat, pietat. I poc a poc va clavar el seu mot era la para, bandoler per vocació. L'endemà, davant la Verge del Carme, hi ha un home que està pregant, de dos ciris encén la flama. Jo té una pregària i per l'ànima d'un mort decidix ja tenen plapa. Gran Joan Serra, avui ja no ha tingut sort, de soldats l'han agafat i ara resta entre barrots. I tothom de bon matí la forca preparada, la pera dona un crit, és l'última pregària. Quan jo sigui ben mort i penjat de l'alta forca i defalleixi mon cor i m'aneu a posar la fossa, que algú reci una pregària davant la Verge del Carme i cada ciris tinguin flama. Ningú ho va Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Catalogna con Marco Bolasco. Dopo aver conosciuto i catalani e la loro terra attraverso la rivoluzione in cucina degli ultimi decenni e dopo aver incontrato alcuni dei cuochi che hanno guidato questa avanguardia, è arrivato il momento del consiglio. Che cosa si deve mangiare per appropriarsi ancora meglio di questo paese e della sua gente? Io